My name is Pasquale Bazzelli. On 9/11, September 2001, I basically got up in the morning to go to work as mi chiamo Pasquale Bozzelli. L'11 settembre del 2001 mi sono alzato come sempre per andare a lavorare. Quella mattina ero un po' in ritardo, perché la sera prima ero andato a dormire tardi in quanto avevo guardato una partita di football. Attorno alle 9, forse un po' prima, forse un po' dopo, sono entrato nel World Trade Center per prendere l'ascensore, o meglio, l'ascensore della prima sezione, perché il grattacielo era così alto che vi erano due sezioni di ascensori. Con il primo ascensore arrivavi fino al 44esimo piano, poi dovevi cambiare e prendere un altro ascensore per raggiungere i piani più alti.